بيشتك داعش بيستيبنجي حتى بيستيبنجي بيستحفتي يركان حزار وبانتاش كوفان البركة دكتور حملا فقش كمية جندان بس بيتربو دكتور ليبراتيون على دي كوفان il 27 gennaio 2015 i compagni e compagni hanno cominciato a liberare proprio terra e fare una pulizia della dei questi barbari sul territorio di Rojava. خلك كوچبر بقول يدي زيفريان نزكي سبي بستو بنج حزار سبيل بدريابو باجار وبندان. dopo liberazione abbiamo fatto una chiamata e i fuggiti da Kobane hanno cominciato a rientrare a Kobane e finora 125.000 civili sono rientrati a Kobane. رغم اواهی پر پاتوگون خراب کردن جیه خدمت Altrimenti secondo me, per lui è La maggior parte della cantone della città è stata distrutta, tutti i posti pubblici, tutti i posti abitabili sono distrutti, però gente hanno cominciato a ritornare a Kobane. Il gruppo di Chakdar e Daesh, Ali Bakr, Ali Bashir in Kobane, il gruppo di Khat Katabun Nava, Bajer Kuryambere. Invece due giorni fa, dal nord di Kobane e sud di Kobane, alcuni membri di ISIS, i gruppetti piccoli, sono entrati a Kobane e hanno fatto un attentativo. Questo sulle nostre verifiche abbiamo saputo che alcuni fuggiti da Raqqa e Tlabiat, dove zona c'è ancora guerra, sta continuando. Alcuni profughi di là hanno collaborato con ISIS per far entrare a Kobane. Dall'ora 4 di mattina fino alle 5 hanno cominciato a aggredire alle persone civili. Come l'ultima notizia posso dirvi che ci sono 220 morti e tutti sono civili, maggioranza sono bambini e le donne vecchie. Ci sono centinaia di feriti. Invece tra i membri di Daesh i compagni hanno ucciso più di 60 e alcuni sono stati catturati. بازار رسی به دست به پاکش کردنی کرد و همو بازار کته بودن کنترل و پاکش کردن دست به بیا. Da stamattina i compagni hanno cominciato a pulire di nuovo liberare la città e maggior parte già sta andando avanti. E ho visto che alle cari vici, alle turchi da sberwish ma fast tu hai visto in turchi ashkara be, non si può neggiare a te. Pranì già perché testate di Hnak al gruppo in città? Finora non avevamo le prove proprio precise che Turchia sta sostenendo l'ISIS, però come l'ultimo tentativo abbiamo capito, abbiamo verificato e già confermato anche la Turchia sta sostenendo ISIS e loro hanno fatto passare ISIS. یعنی جیران کیوا که ترکی شونی کل کلا که مروواهی بسکنید کلا که ببریا کانتونی کلا که حیز مروواهی یا پکو یا پجه بسکنید پرسی وی کار بکه تم هلوستن هانه که دجی ریوبری دیده هلوستن که دستک دیده داعش او تم در بخی پیش Un vicino di nostro territorio è Turchia che deve aiutarci, deve sostenere l'unità difesa del popolo, l'unità difesa delle donne, YPG, YPG, invece di fare questo sostenimento e collaborazione sta sostenendo ISIS e sta proprio collaborando con ISIS per massacrare i civili. Una che opposizione è surigizzata oggi da stati del Daesh, che da fino a Rush vede in cordide che Ecco, anche alcuni gruppi sul territorio di Siria stanno collaborando con ISIS e buttano fango alla lotta di YPG e YPG. Già vedo visa amd fazan al western dawlat al turk ashkara be hamdar va hezin haro u devien ko gele italia el vedere e dosten khat که هندر سازین سیویل و هندر رایدارین حکومت ایتالیا بیتر پیشگیری کوبانی بکر پیشگیری نوا کسی می کجبر بی تجبوری که بگرن ندا نسر آفا کوبانی جیان بکن ارمان نوی که دیامانکل ترکیه پر کیاره سو پوزیسیون سیا کنتر دی ایزیس اپوره سی ستا کن ایزیس دبه chiarire questo punto anche ad altri paesi, altri popoli come oggi siamo in Italia, chiamiamo anche il governo italiano e il popolo italiano che devono prendere una posizione contro queste barbarie, contro il terrorismo di ISIS. گوتم پر ام نکانم به ساعت که دا یان به پرسه که دا افافتم به لیاما اون هر کس وی تشتی زانن پیشگیری و جمع رو باقی جار کنجی از سپاس کن کسی بگره Tutti quanti devono saperlo che noi resisteremo se ci sono anche attacchi più forti, più pesanti noi siamo là per resistere e difenderemo il nostro territorio e difenderemo tutta la umanità Perciò noi anche vi invitiamo in questo punto, sosteneteci che vinciamo insieme, tutti quanti. Una lotta per l'umanità, una lotta per tutto il mondo.